conoscersi non è un caso, non è nemmeno un'idea, non è restare lontani e non toccarsi più. Il vuoto dentro di noi è la mancanza di ali, un buco nero e nervoso che ruba l'anima. Arriva il giorno e poi non riesci più nemmeno a vivere. Prestampati precetti, arriva il giorno.